Pace di Raffaella Calandra. Tutti ci rendiamo conto qual è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale ci accorgiamo come in effetti il paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro. Nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. La principale orazione funebre per Giovanni Falcone la pronunciò l'amico Paolo Borsellino nel suo ultimo discorso pubblico il 25 giugno 1992, un mese prima di essere ucciso a sua volta e poco più di un mese dopo l'attentatuni, quando insieme all'autostrada di Capaci saltarono in aria il 23 maggio Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i 5 agenti della scorta. Un discorso che più che una commemorazione fu un atto d'accusa verso chi negli anni aveva isolato e umiliato il magistrato più esposto nella lotta alla mafia. E il dito Borsellino lo punta esplicitamente contro chi lo sta ascoltando, una platea di magistrati. Un isolamento che molti, oggi, 23 anni dopo, ritrovano intorno a Nino Di Matteo, il PM del processo sulla trattativa Stato-mafia, il magistrato che Cosa Nostra vuole vedere morto più di tutti. Il magistrato che vive blindato come nessun altro e che il CSM boccia per la Procura Nazionale Antimafia. E allora dai marmi gelidi del Palazzo di Giustizia di Palermo parte questa nuova puntata di Storiacce nei giorni delle commemorazioni delle vittime delle stragi di mafia. Il 23 maggio del 92 è una data che ha segnato la coscienza di tutti gli italiani. Io credo che per onorare davvero la memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, degli agenti della scorta, sia necessario innanzitutto continuare a cercare la verità e a colmare quei buchi che ancora sussistono nella ricostruzione dello scenario complessivo della strage di Capaci. Il vero modo di commemorare è continuare a lavorare e soprattutto, più in generale, credo, affrontare quei nodi che già Giovanni Falcone aveva più volte denunciato, che sono i nodi dei rapporti tra la mafia e il potere. Sono quei rapporti che facevano dire a Giovanni Falcone di temere di poter essere ucciso perché era entrato in un gioco grande. Sono quei nodi che ne avevano fatto parlare Giovanni Falcone nel senso del pericolo di ibridi connubi, sono frasi sue. Quando commemoriamo i morti dobbiamo cercare di capire perché sono morti e soprattutto portare veramente avanti le loro idee e i loro progetti. Quindi per commemorare le vittime di mafia uno dei modi più concreti è anche portare a termine processi importanti come quello sulla trattativa Stato-mafia? Io credo che il modo più concreto sia quello di continuare a lavorare nella stessa maniera in cui Giovanni Falcone lavorava. E Giovanni Falcone, così come Paolo Borsellino e altri componenti del pool antimafia, avevano cominciato dalla repressione della mafia militare, ma avevano puntato il loro obiettivo anche più in alto. In ogni occasione in cui un'inchiesta prova a ricostruire quei rapporti tra la mafia e il potere, accusano la magistratura di politicizzazione. Oggi ci sono tanti che fingono di commemorare i nostri morti, che quando erano in vita dalle stesse persone venivano definite giudici politicizzati. La verità è il migliore modo per commemorare. Il più delicato e difficile dei processi che Nino Di Matteo, PM palermitano, sta portando avanti è quello sulla trattativa Stato-mafia, dove sul banco degli imputati, insieme ai vertici di Cosa Nostra e ai più sanguinosi stragisti, ci sono anche pezzi dello Stato. Un processo che ha infiammato lo scontro politico e gettato nel centro delle polemiche soprattutto il magistrato più esposto, quello che Totò Riina vuole morto, come ha esplicitamente detto il capo dei capi nei suoi colloqui in carcere col compagno di cella, quello nei cui confronti esiste un piano avanzato di attentato. Lo ha rivelato un collaboratore di giustizia, Galatolo, e altri sono gli elementi già raccolti soprattutto dalla procura di Caltanissetta. Così Nino Di Matteo ora vive blindato come nessun altro, seguito anche da un bombjammer dopo aver rifiutato addirittura un lince per spostarsi. Sono mezzi da guerra. Senza perdere la serenità però e il sorriso, Di Matteo parla anche di questo con Storiace, dopo aver appena dato alla stampa un libro, Collusi, appena pubblicato con Burra. Ma non nasconde il PM palermitano nella paura, nell'amarezza per un isolamento aumentato dopo che il CSM ha bocciato la sua candidatura alla Procura Nazionale Antimafia e lui ha risposto con un esposto al TAR in cui dice di essere stato umiliato. Certamente posso solo dire che non è una situazione facile. È indubbio che quello che è stato rappresentato da collaboratori di giustizia è un piano purtroppo avanzato di preparazione dell'attentato, e che le parole intercettate non sono le parole di uno qualsiasi, di un mafioso come tanti altri, ma di quello che la storia lo dimostra è stato lo stragista più violento e spietato degli ultimi anni della storia del nostro paese. Ma lei, proprio come magistrato, come valuta queste parole del capo dei capi di Cosa Nostra? Sono abbastanza insolite. È la procura di Caltanissetta che ha aperto un procedimento anche non soltanto sulla base delle intercettazioni di Salvatore Riina. Tante volte mi sono trovato in passato a dover cercare la prova che Totò Riina è stato il mandante di altri attentati, di altri delitti, di altre stragi. Amaramente rifletto che probabilmente, se speriamo mai, oggi accadesse qualcosa, quelle parole intercettate al carcere costituirebbero, diciamo, un elemento di prova decisivo a suo carico. Le dedica un capitolo del suo libro, Collusi, al dialogo tra mafia e politica. Ma lei sente di essere in una situazione analoga a quella vissuta da Falcone e Borsellino, anche in relazione al clima creato ultimamente nei suoi confronti e nel processo che lei porta avanti, quello sulla trattativa? Io dico che più in generale quel fastidio che evidentemente caratterizzava l'atteggiamento di molti, anche di una parte cospicua dell'opinione pubblica, nei confronti dell'azione del pool antimafia, si continua oggi a respirare ogni qualvolta le inchieste mirano in alto. Certamente il fastidio nei confronti di questo tipo di indagine su mafia e potere oggi comincia a serpeggiare, secondo me, in ambienti sempre più consistenti dell'opinione pubblica, della politica. Le cronache dimostrano che i mafiosi provano a raggiungere anche i magistrati. Sì, il pericolo ovviamente è sempre dietro l'angolo. Il libro ricorda molti casi di contiguità tra la mafia ed esponenti delle istituzioni, però ricorda come questi casi siano stati individuati e sanzionati adeguatamente al termine di regolari processi. Quando lo Stato riesce a far pulizia anche dentro se stesso, io credo che dimostra di essere uno Stato forte. Le indagini, va detto, diventano ancora più difficili quando toccano il potere. Le difficoltà sono plurime e a volte anche interne alla stessa magistratura. Lei ha parole molto dure anche nei confronti dell'organo di autogoverno della magistratura. Definisce nel libro del CSM deteriorato e legato in maniera scandalosa alle correnti. Sappiamo anche della recente bocciatura di Palazzo dei Marescialli alla sua domanda per la Procura Nazionale Antimafia. Queste vicende personali aumentano l'isolamento di magistrati esposti e sotto minaccia come lei? Quel capitolo del libro è stato scritto prima ancora che si realizzasse la vicenda del concorso a cui ho partecipato per la Procura Nazionale Antimafia. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura è una precondizione essenziale per il funzionamento della nostra democrazia. Noi dobbiamo vigilare perché questa autonomia e l'indipendenza non vengano intaccate da un pericolo esterno, e cioè di quella parte della politica che vorrebbe ridurre il magistrato ad un burocrate che, più che attento a fare giustizia, sia attento a non scontentare la politica e i potenti. Ma dobbiamo anche denunciare i pericoli di lesione dell'autonomia e dell'indipendenza che vengono dall'interno, cioè dagli organismi di autogoverno. Io credo che l'eccessivo peso delle correnti nell'autogoverno della magistratura, così come calcoli di opportunismo o di opportunità politica nelle scelte dell'autogoverno, finiscano per limitare l'autonomia di ogni singolo magistrato. Vede, ci sono molti magistrati che giustamente non sono legati a nessun partito o corrente politica, che non si vogliono iscrivere alle correnti della magistratura, che oggi sono scoraggiati perché sono consapevoli che il mancato inserimento nel sistema, anche nel sistema correntizio, li potrà pregiudicare anche nella carriera. Un fenomeno sempre più diffuso che a mio avviso deve essere denunciato e contrastato. Non è il problema di Nino Di Matteo, è il problema di tanti magistrati che sono consapevoli che oggi non appartenere a nessuna corrente della magistratura finisce per creare delle difficoltà di vario tipo nello svolgimento della propria carriera, e questo non è giusto. Davanti alle minacce ripetute di Cosa Nostra, che ha preparato un attentato contro di lui, davanti all'amarezza per la bocciatura del CSM, a Nino Di Matteo è mai venuta voglia di lasciare la toga e di lasciare Palermo? Riparte da qui la seconda parte di Storiacce, col magistrato che tutti ora considerano isolato come un tempo fu Giovanni Falcone, fatto saltare in aria dai boss il 23 maggio 1900. Storiacce. Tira una brutta aria a Palermo, scrive Salvo Palazzolo, collega di lungo corso, cronista di mafia da tempo. Analizza la situazione, le inchieste che decapitano sì le cosche mafiose, ma pure quelle che lambiscono pezzi significativi dell'antimafia. Rievoca le polemiche che per mesi hanno investito e travolto soprattutto il pool che rappresenta l'accusa nel processo sulla trattativa Stato-mafia, e all'interno di Collusi, libro colloquio con la PM Nino Di Matteo, conclude appunto che tira una brutta aria a Palermo e tira soprattutto intorno al magistrato più noto e più esposto all'interno del pool antimafia, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce, quello che Totò Riina racconta di voler volere morto, quello per cui era stato già trovato pure l'esplosivo, ma lo stesso magistrato che il CSM boccia nella corsa alla Procura Nazionale Antimafia. Umiliandomi, scrive Di Matteo attraverso i legali nel ricorso al TAR. E in questo libro, che raccoglie le sue riflessioni sulle difficoltà delle inchieste antimafia, non esclude quelle provenienti dall'interno della stessa magistratura, logorate in maniera scandalosa, dice del CSM, dalle correnti. Parole durissime su cui ora Nino Di Matteo torna con Storiacce. È un fenomeno, quello dell'eccessivo peso delle correnti nell'autogoverno della magistratura, che rischia di delegittimare e di sfiduciare tanti magistrati. Al PM Nino Di Matteo io voglio chiedere, le viene la tentazione di lasciare la toga se non dovesse più occuparsi di mafia? Guardi, razionalmente tante volte nei momenti di difficoltà mi sono chiesto cosa mi spingesse ancora a rimanere a fare il mio lavoro. Evidentemente prevale la passione per il lavoro che sognavo di fare fin da quando ero ragazzo. Fino a quando mi sarà consentito farlo in condizioni di autonomia, di indipendenza, di sopportabilità del tutto, farò il magistrato. Quindi l'amarezza non prende il sopravvento sulla volontà di continuare ad indagare sulla mafia a Palermo? Guardi, il problema non è occuparsi a Palermo di mafia. Io credo che ci sia un problema più generale. La mia carriera, per una serie anche di contingenze, si è sviluppata tutta nel settore dell'attività inquirente riguardante fenomeni di mafia. Penso che sarebbe opportuno che le professionalità, non soltanto la mia ma quella di tanti altri colleghi, venissero salvaguardate e valorizzate. Personalmente reputo una contraddizione logica la previsione per cui quando un magistrato acquisisce finalmente una consapevolezza del fenomeno, un'esperienza nel settore di un fenomeno così delicato come quello della criminalità organizzata, debba cambiare ambito di indagine. È come se un medico si specializzasse in chirurgia e quando dopo tanti anni di esperienza è in condizioni di operare più efficacemente dovesse tornare ad occuparsi di altro, al pronto soccorso, chissà dove. Leggendo Collusi e richiamando anche le cronache recenti di inchieste che hanno coinvolto pure pezzi dell'antimafia, sono stata a dire il vero molto d'accordo con le parole di Salvo Palazzolo, che scrive che a Palermo tira una brutta aria. Lei concorda? A Palermo la storia ci insegna che nei momenti in cui si è pensato che il fenomeno mafioso fosse definitivamente tramontato, ci si è trovati di fronte poi ad una recrudescenza importante, anche con eventi stragisti. La storia ci insegna che nei momenti in cui appare meno visibile, Cosa Nostra può essere, come è in questo momento, comunque forte e comunque pericolosa. La storia ci insegna che la sottovalutazione di certi segnali, e di segnali in questi ultimi anni ce ne sono stati tanti, rischia poi di provocare situazioni di isolamento che sono sempre propedeutiche ad eventi criminali importanti. Non è il momento di considerare chiuso il capitolo mafia, come tanti, troppi nel paese dimostrano di voler fare. A lei, dottor Di Matteo, dopo le pesanti minacce da parte di Totò e Riina e gli elementi raccolti sulla progettazione di un attentato a suo carico, è stata messa in piedi una protezione senza precedenti. Le avevano proposto anche il lince, che lei però ha rifiutato. Ora è arrivato il bomb jammer, stiamo parlando di dispositivi da guerra. E io ora a lei voglio chiedere, così come all'epoca fu chiesto a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino, ma davanti a tutto questo lei davvero non ha paura? Credo che la risposta più bella l'ha data Paolo Borsellino. Prima di morire disse che essere coraggiosi non significa non provare paura, ma significa far prevalere la consapevolezza della dignità del proprio ruolo, che è un ruolo che impone di non subire condizionamenti esterni, rispetto a un sentimento umano che è quello della paura, che Paolo Borsellino provava, e che io penso che di fronte a certe situazioni, di fronte a certe intercettazioni o a certe dichiarazioni di pentiti, tutti noi proviamo. Non provare paura sarebbe innaturale. Sulla paura però deve prevalere, e spero che prevalga sempre, il coraggio della dignità, perché un magistrato che si facesse condizionare dalla paura nel proprio lavoro farebbe meglio a svestire la toga e a occuparsi di altro. La paura c'è, ma si deve superare con la consapevolezza della dignità del proprio ruolo, che non ammette condizionamenti. Da quel giorno del 1992, quando Giovanni Falcone saltò in aria sull'autostrada di Capaci, il 23 maggio in Italia è la giornata della legalità e della giustizia, somma divinità per gli antichi. La linea, come sempre a questo punto, va alle mitiche storiacce di Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Vi sto parlando da Siracusa, davanti al Teatro Greco, dove stanno andando in scena le rappresentazioni dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico. E uno dei testi più legati a questo teatro siracusano è senz'altro l'Orestia di Eschilo. Fu memorabile la messa in scena del 1960 con Vittorio Gassman protagonista e la traduzione di Pierpaolo Pasolini. Ora, l'Oreste è un testo che come tema centrale ha la giustizia e il diritto. Il dramma culmina del resto nell'istituzione di un tribunale, chiamato Areopago, che deve giudicare il delitto mitologico dell'eroe Oreste, assassino della madre. Rispettate questo tribunale, dicono i versi di Eschilo, e la vostra terra sarà difesa da un baluardo invincibile, un presidio incorruttibile, una sentinella che veglierà sul vostro sonno. La storia non è solo mitologica. L'Areopago esisteva davvero e la collinetta dove sorgeva il tribunale vicino all'Acropoli la si può visitare ancora oggi. Pochi anni prima che Eschilo rappresentasse la sua Orestea, nel 461 a.C., il tribunale era stato anzi motivo di scontri e di delitti. Efialte, uno dei leader democratici, fu ammazzato da un sicario rimasto sconosciuto perché aveva cercato di riformare il tribunale e di sottrarre l'amministrazione della giustizia al monopolio degli aristocratici. Quando Eschilo parla di giustizia, di leggi, non sta facendo insomma un discorso astratto, e non a caso nel 2008, proprio qui a Siracusa, fu l'allora procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso a recitare le parole di Eschilo nel teatro, per ricordarci che oggi, come ai tempi di Eschilo, il vivere civile è possibile solo dove il diritto prevale sulla violenza. E voi cosa pensate della vicenda del PM palermitano Nino Di Matteo? Pensate davvero che sia isolato come Giovanni Falcone? Scriveteci sulla pagina di Storiacce sul sito Radio 24, dove potete riascoltare anche tutte le puntate. Ci trovate poi anche sul blog Storiacce e sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. In chiusura, come segnalazione, vi ricordo che ogni giovedì in edicola col Sole 24 Ore trovate i libri degli uomini e delle donne che lottano contro le cosche, ora legale. Ciao a tutti, a presto.